Di rose l'aurora spuntò, l'ultima stella fuggì. Sotto la gronda ogni nido destò, qualche finestra si aprì. Un brivido corse nei prati, fra l'erba si mossero i fior. Svegliatevi, svegliatevi e cantate, c'è il sole del mattino, vieni ancora da me. L'oro sei dei poveri e in fondi all'anima la gioia di vivere liberi. Sole del mattino, vestimi di raggi d'or, il tuo splendore ricco mi farà di più. Sole dei poveri sei. Il tuo splendore ricco mi farà di più, sole dei poveri sei.